America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Comincio dai Golden Globe di ieri notte. Sorpresa per l'Italia, Ennio Morricone, 87 anni, miglior colonna sonora del 2016 per il film The Hateful Eight di Quentin Tarantino. The Revenant, miglior film, miglior regia, Alejandro Iñárritu, miglior attore, Leonardo DiCaprio. I tre premi principali, ma forse eccessivo. The Martian, per la sezione commedia, miglior film, miglior attore, Matt Damon. Migliori attrici, per la sezione commedia vince Jennifer Lawrence per Joy, sezione drammatica Brie Larson per Room. Ne parleremo nei prossimi giorni, perché la copertina della settimana la voglio dedicare a Barack Obama. Since I took office 7 years ago in the midst of crisis, I don't think I have ever been more optimistic about a year ahead than I am right now. Beh, un'anteprima, un video che gira sul sito della Casa Bianca con le riflessioni del presidente Barack Obama su questi suoi 7 anni e qualche cosa di presidenza americana. La copertina di questa settimana la dedichiamo proprio a Barack Obama. Perché? Perché martedì, cioè domani, farà il suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione. E siamo arrivati alla fine dell'era Obama. Questo discorso non sarà solo un discorso su quello che è successo nell'anno passato, come la tradizione vuole, ma sarà un discorso, come dire, di commiato dagli americani e un discorso di bilancio su quello che questo presidente straordinariamente importante dal punto di vista storico, il primo presidente afroamericano, è riuscito a fare da quando si è insediato alla Casa Bianca fino ad oggi. And in what free moments I can take right now, I'm working on my State of the Union address. It's my last one. And as I'm writing, I keep thinking about the road that we've traveled together these past 7 years. Ecco, di nuovo sentite questo passaggio in cui il presidente dice: beh, questo sarà il mio ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, non credo di essere mai stato più ottimista di quanto sono ora. Mentre scrivo, mentre preparo questo discorso, penso alla strada che abbiamo fatto insieme, alle storie che abbiamo condiviso, alle crisi che abbiamo superato, ed è questo che rende l'America grande, la nostra capacità di cambiare in meglio, di essere uniti come una grande famiglia. Questo è ciò che siamo e su questo voglio concentrarmi nell'ultimo discorso, che sarà per voi specifica, sarà per gli americani. Ecco, come vi dicevo, siamo arrivati alla fine di questo periodo. Beh, c'è ancora un anno, un presidente che sarà sicuramente attivo, lo abbiamo visto con l'iniziativa sul controllo delle vendite di armi, ma dovendo fare un bilancio, beh, si parte dalla crisi del 2007 e l'America oggi, lo abbiamo visto dal dato sulla disoccupazione, quasi 300.000 nuovi occupati nel mese di dicembre. L'America è tornata ad essere un paese forte, stabile dal punto di vista economico. Barack Obama rivendicherà di aver rimesso in piedi il paese, ma ci sono stati progressi sotto ogni fronte, per esempio sul fronte dei matrimoni gay, la riforma sanitaria, la riapertura delle relazioni con Cuba, l'accordo sul nucleare iraniano. Il dato più importante, ripeto, è quello sull'occupazione. Sono stati creati complessivamente, da quando Barack Obama ha imboccato la strada dello stimolo, dell'espansione, non dell'austerità, milioni e milioni di posti di lavoro, oltre 10 milioni di posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione che è al 5%. Non solo, Obama ha investito nel settore manifatturiero, ha investito nelle autostrade elettroniche, ha investito cercando di coniugare alta tecnologia con vecchio manifatturiero. Ecco, di questo parleremo naturalmente ampiamente dopo il discorso di Barack Obama, ma quest'ultimo tema, quello degli investimenti infrastrutturali di cui si parla sempre, ci porta anche un po' a casa nostra. Perché cosa abbiamo fatto noi? Beh, non tantissimo, perché siamo impegnati sul fronte di investimenti infrastrutturali, e ce n'è uno in particolare che secondo me è fondamentale, che è quello sulla banda larga, e se ne continua a parlare. Ecco, io ho fatto una chiacchierata con un personaggio americano che si chiama Peter Cohen, che era stato presidente e amministratore delegato di Shearson Lehman Brothers ai tempi d'oro. Oggi è una sua finanziaria, la Cohen Group, che vale circa 15 miliardi di dollari. Ebbene, che ha fatto? Ha portato la banda larga in Italia e con un progetto wireless, con un progetto che funziona attraverso la diffusione cellulare, ripetitori, ha comprato frequenze e così via così. Il progetto è molto interessante perché ha già oltre 300.000 abbonati, andrà a coprire Napoli, Firenze, Roma in primavera. E dunque di questo vi parlerò un po' più in là, perché è un tema molto forte, però intanto voglio darvi un'anticipazione su una chiacchierata che ho fatto con lui e che secondo me fa notizia. Sentiamo Peter Cohen che parla di Linkem, questa società che porta banda larga in Italia. How does your project Linkem relate to the one of the government? Well, it seems the government Ecco, Peter Cohen risponde in modo molto diretto sul tema, perché dice, da una parte, qual è la relazione del suo progetto Linkem con l'iniziativa del governo? Beh, Peter Cohen dice che il nostro progetto è perfettamente sinergico con quello nazionale che vuole dotare l'ultimo miglio di fibra ottica e dice, noi copriamo già il 55% della popolazione nazionale, arriveremo a coprire il 100% nel giro dei prossimi anni, e dice, l'unica cosa, sono sorpreso da una cosa che ho sentito, cioè che nel fine settimana il governo ha detto che voleva investire 4 miliardi di dollari per coprire zone periferiche. Ecco, dice Peter Cohen, noi in realtà abbiamo investito finora circa 400 milioni di dollari, ne investiremo altri 200 e alla fine con circa 600-700 milioni di dollari e non 4 miliardi per coprire solo le zone periferiche, avremo coperto tutto il territorio nazionale. Quindi in qualche modo lancia una sfida per la cooperazione, ma soprattutto una sfida per la razionalizzazione degli investimenti alla banda larga, che vi ripeto sono urgenti e secondo me molto importanti, ma di tutto questo ne parleremo più avanti nella settimana. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!